Terzo anello ad alta voce. Per chi suona la campana, di Ernest Hemingway. L'unico rumore nella caverna era adesso lo sfrigolio che veniva dal focolare, dove la neve, attraverso il buco nel tetto, cadeva sui carboni accesi. Agustin stava accanto al fuoco, gli altri erano seduti. Pilar sedeva alla tavola di fronte a Robert Jordan. «Ebbene, Inglés», disse. «Hai visto com'è Pablo? Che cosa farà?» chiese Robert Jordan. «Può fare qualunque cosa», disse Pilar con gli occhi abbassati sulla tavola. «È capace di qualunque cosa». «Dov'è il fucile automatico?» chiese Robert Jordan. «Lì, nell'angolo», disse Primitivo. «Avvolto nella coperta. Lo vuoi?» «Più tardi», disse Robert Jordan. «Volevo solo sapere dov'è». «È là», disse Primitivo. «L'ho portato dentro io e l'ho avvolto nella mia coperta per tenerlo al sicuro. I dischi stanno nel sacco». «Una cosa simile non la farebbe», disse Pilar. «No, non farebbe niente con la macchina». «Ma non hai detto che è capace di tutto?» «Sì», disse Pilar. «Ma la macchina non sa adoperarla. Magari butterebbe una bomba. È più nel suo stile». «È stata un'idiosia e una debolezza non averlo ucciso», disse lo zingaro, che per tutta la sera non aveva preso parte alla conversazione. «Roberto avrebbe dovuto ucciderlo ieri sera». «Ucciderlo, sì», disse Pilar. La sua larga faccia era scura e stanca. «Ora sono d'accordo anch'io». «Io ero contro», disse Agustin. Stava davanti al focolare, le braccia pendenti, le guance sotto gli zigomi ombreggiate da una corta barba nera. «Ora sono anch'io d'accordo. Ora Pablo è velenoso. Vorrebbe vederci tutti distrutti». «Che ognuno dica il suo parere», disse Pilar con voce stanca. «Tu, Andrés?» «Matarlo», disse chinando la testa quello dei fratelli che aveva i capelli neri attaccati bassi a punta sulla fronte. «Eladio?» «Lo stesso», disse l'altro fratello. «A me sembra un gran pericolo e non serve a niente». «Primitivo?» «Lo stesso». «Fernando?» «Non potremmo tenerlo prigioniero?» domandò Fernando. «Chi sorveglierebbe il prigioniero?» chiese Primitivo. «Ci vorrebbero due uomini, e poi che cosa ne faremmo alla fine?» «Potremmo venderlo ai fascisti», disse lo zingaro. «Questo no», disse Agustin. «Non facciamo porcherie». «E sto il listo», disse Robert Jordan. «Io sono pronto a ucciderlo, poiché tutti giudicate che si debba farlo. Vi renderò questo servizio». «No», disse Maria. «No». «Questo non ti riguarda», disse Pilar alla ragazza. «Zitta». «Lo farò stanotte», disse Robert Jordan. Vide che Pilar lo guardava, le dita sulle labbra. Lo sguardo di lei andò poi alla porta. La coperta che pendeva all'ingresso fu sollevata e Pablo mise dentro la testa. Guardò tutti ridendo. Scivolò sotto la coperta, poi si voltò e la rimise a posto. Si voltò di nuovo, fronte agli altri. Si tirò sulla testa il mantello di panno e ne scosse la neve. «Stavate parlando di me?» domandò, rivolgendosi a tutti. «Vi ho forse interrotti?» Nessuno gli rispose. Egli appese il mantello a un piolo conficcato nella parete e si avvicinò al tavolo. «Che tal?» chiese, prendendo la sua tazza che era rimasta vuota sul tavolo e immergendola nell'orcio del vino. «Non c'è vino», disse a Maria. «Vado a spillare dall'otre». «Oggi ho bevuto dall'ombelico fino al petto», disse Pablo. «Per un giorno ho fatto un bel lavoro». «Ma voi altri che cosa avete? Avete perduto la lingua?» Nessuno disse niente. «Rimetti lo zaffo, Maria», disse Pablo, «altrimenti si spreca». «Vino ce n'è abbastanza», disse Agustin. «Potrai ubriacarti». «Oh, senti, uno almeno ha ritrovato la lingua», disse Pablo facendo un cenno ad Agustin. «Congratulazioni, credevo che ti fosse ammutolito». «Perché?» chiese Agustin. «Perché sono entrato io». «Credi che il tuo arrivo sia tanto importante?» «Forse», pensò Robert Jordan, «si sta montando per farlo. Forse Agustin lo farà, lo odia», pensò. «E non è il caso di fare dei duelli a colpi d'arma da fuoco o altre diavolerie qua dentro, con la dinamite lì nell'angolo». «Agustin!» disse. «Che vuoi?» Agustin alzò cupo gli occhi, distogliendoli da Pablo. «Devo parlarti», disse Robert Jordan. «Più tardi, ora», disse Robert Jordan. «Por favor». Robert Jordan si era avvicinato all'ingresso della caverna, seguito dallo sguardo di Pablo. Agustin, alto, le guance affossate, si alzò e gli si avvicinò. Si muoveva con riluttanza e con disprezzo. «Hai dimenticato che cosa c'è nei sacchi?» disse Robert Jordan, parlando così piano che nessuno poteva udirli. «Lecce», disse Agustin. «Uno si abitua e dimentica. Ho dimenticato anch'io. Lecce», disse Agustin. «Lecce, che stupidi siamo!» Tornò con passo dinoccolato verso il tavolo e si sedé. «Bevi un sorso, Pablo», disse. «Come stavano i cavalli?» «Benissimo», disse Pablo. «E la neve è diminuita. Credi che cesserà?» «Sì», disse Pablo. «Si è già diradata e ora cadono dei piccoli chicchi duri. Si alzerà il vento, ma la neve sta per finire. Il vento è cambiato». «Credi che domani rischiarerà?» chiese Robert Jordan. «Sì», disse Pablo. «Credo che domani sarà una giornata fredda e serena. Il vento sta cambiando». «Avremo un ottimo tempo per la nostra faccenda domani, inglese», disse Pablo a Robert Jordan. «Avremo», disse Pilar. «Avremo», «Sì, avremo», disse Pablo, e le sorrise, e beve un po' di vino. «Perché no? Ci pensavo poco fa, là fuori. Perché non dovremmo metterci d'accordo?» «In che cosa?» chiese la donna. «In che cosa, ora?» «In tutto», disse Pablo. «In questa faccenda del ponte. Ora sono con te». «Ora sei con noi», gli disse Agustin. «Dopo quello che hai detto». «Sì», disse Pablo. «Ora che il tempo è cambiato, sono con te». Agustin crollò la testa. «Il tempo? E anche dopo che ti ho schiaffeggiato?» «Sì». Pablo si passò le dita sulle labbra e guardò sorridendo Agustin. «Anche dopo questo?» Robert Jordan osservava Pilar. Lei guardava Pablo come uno strano animale. «Ascolta», disse a Pablo. «Sì, mujer. Che cosa ti succede?» «Niente», disse Pablo. «Ho cambiato parere, nient'altro». «Hai origliato la porta?» essa gli disse. «Sì», disse Pablo, «ma non ho sentito niente». «Hai paura che ti uccidiamo?» «No», disse egli, e la guardò al di sopra della tazza di vino. «Non ho paura di questo, tu lo sai». «Che diavolo ti succede?» disse Agustin. «Ora sei ubriaco e ci copri di insulti, e rifiuti di collaborare con noi al lavoro che abbiamo da fare, e parli della nostra morte nel modo più sporco, e offendi le donne, e ci metti i bastoni fra le ruote». «Ero ubriaco», gli disse Pablo. «Ed ora?» «Non sono più ubriaco», disse Pablo, «e ho cambiato parere». «Che gli altri si fidino pure di te, io non mi fido», disse Agustin. «Che tutti fidi o no di me», disse Pablo, «non c'è nessuno che possa portarti come me ai Gredos». «Ai Gredos? È l'unico posto dove si possa andare dopo la faccenda del ponte». Robert Jordan, guardando Pilar, alzò la mano dalla parte opposta a quella di Pablo e si batté l'orecchio con aria interrogativa. La donna annuì, poi annuì di nuovo. Disse qualcosa a Maria e la ragazza si avvicinò a Robert Jordan. «Dice, certo che ha udito», bisbigliò Maria nell'orecchio di Robert Jordan. Faceva caldo nella caverna e fuori il vento era cessato. Ora Robert Jordan era seduto alla tavola con il taccuino davanti e studiava tutta la parte tecnica dell'esplosione. Disegnò tre schizzi, fece i suoi calcoli, indicò il sistema di esplosione con due disegni, chiari, come un tabellone da giardino d'infanzia, in modo che Anselmo potesse portare a termine la faccenda se mai a lui fosse capitato qualcosa nel corso dell'azione. Finì quei disegni e li studiò. Maria gli sedeva vicino e guardava sopra la sua spalla mentre egli lavorava. Robert Jordan era consapevole della presenza di Pablo all'altro lato del tavolo e degli altri che chiacchieravano e giocavano a carte. Finito che ebbe il suo progetto, cominciò a segnare su un'altra pagina del taccuino gli ordini per l'operazione. Aveva la mente chiara ed era soddisfatto di quello che veniva scrivendo. Scrisse due pagine del taccuino e le rilesse attentamente. «Mi sembra che sia tutto», disse tra sé. «È perfettamente chiaro e non credo che manchi niente. I due posti di guardia saranno distrutti e il ponte salterà, secondo gli ordini di Goltz. E questa è la mia sola responsabilità. Tutta questa faccenda di Pablo è una cosa in cui non mi sarei mai dovuto immischiare e si risolverà in un modo o nell'altro. Pablo ci sarà oppure Pablo non ci sarà. Nell'uno o nell'altro caso non me ne importa niente». Chiuse il taccuino e guardò Maria. «Hola, guapa», le disse. «Hai capito niente di tutta quella roba?» «No, Roberto», disse la ragazza, e gli mise la mano sulla mano che ancora teneva la matita. «Hai finito?» «Sì, ora è tutto scritto e preparato». «Che cosa hai fatto, Inglese?» domandò Pablo attraverso la tavola. I suoi occhi erano di nuovo torbidi. «Ho lavorato al problema del ponte», rispose garbatamente. «Come va?» domandò Pablo. «Molto bene», disse Robert Jordan. «Tutto molto bene». «Io ho lavorato al problema della ritirata», disse Pablo. E Robert Jordan guardò la tazza del vino e i suoi occhi porcini di ubriaco. La tazza del vino era quasi vuota. Thank you. cosa più strana è il trapasso dal pericolo di morte alla normale vita di famiglia, pensò Robert Jordan. Due giorni fa non sapevo neppure che Pilar, Pablo e gli altri esistessero, pensò. Non esisteva una Maria nel mondo. Era certamente un mondo più semplice. Avevo degli ordini da Goltz, che erano perfettamente chiari, e sembrava perfettamente possibile eseguirli, sebbene presentassero certe difficoltà e implicassero certe conseguenze. Dopo aver fatto saltare il ponte, mi aspettavo di tornare indietro, o di non tornare indietro, e se tornavo indietro avrei chiesto di stare un po' di tempo a Madrid. Non ci sono licenze in questa guerra, ma sono sicuro che potrei ottenere di rimanere 2 o 3 giorni a Madrid. A Madrid volevo comprare alcuni libri, andare all'Hotel Florida e farmi dare una camera e fare un bagno caldo, pensò. Avrei mandato Luis il facchino in cerca di una bottiglia di Essenzio e sarei rimasto coricato dopo il bagno a leggere e a bere un paio di bicchierini di Essenzio. E poi sarei andato al Gaylord a vedere se c'era qualcosa da mangiare. La prima volta che c'era andato al Gaylord, l'albergo che era stato requisito dai russi a Madrid, non gli era piaciuto, poiché aveva un'aria troppo lussuosa e ci si mangiava troppo bene per una città assediata, e i discorsi che vi si facevano erano troppo cinici per una guerra. «Ma mi lasciai corrompere molto facilmente», pensò. «Perché uno non doveva mangiare meglio che poteva tornando da un'impresa come quella?» E i discorsi che gli erano sembrati cinici, quando li aveva uditi la prima volta, erano risultati, poi, anche troppo veri. «Questa sera sarà una cosa da raccontare al Gaylord», pensò. «Quando sarà finita?» «Sì, quando sarà finita?» Il Gaylord era il posto dove uno incontrava i famosi comandanti spagnoli, contadini e operai che erano saltati fuori dal popolo all'inizio della guerra senza alcuna istruzione militare, e scopriva che molti di loro parlavano russo. Quella era stata, pochi mesi addietro, la sua prima grande delusione, e gli aveva, sulle prime, ispirato pensieri cinici. Ma quando ebbe capito com'era accaduto, tutto risultò in ordine. Erano veramente contadini e operai. Avevano preso parte alla rivoluzione del 1934 e, quando questa era fallita, erano fuggiti dal loro paese e in Russia li avevano mandati all'Accademia Militare e all'Istituto Lenin, finanziato dal Cominter, in modo che fossero pronti a combattere la prossima volta e avessero istruzione militare necessaria per comandare. Il Cominter li aveva fatti istruire lì. In una rivoluzione non si può consentire ad estranei di aiutarvi, né a chiunque altro di sapere più di quel che si deve sapere. Egli aveva imparato questo. Se una cosa è giusta nella sostanza, le menzogne di contorno non contano. C'erano però una quantità di menzogne. In principio quel mentire non gli piaceva, l'odiava. Poi più tardi gli era persino piaciuto. Era inevitabile quando uno si trova al centro delle cose, ma era una faccenda che corrompeva. Il Gaylord era senza dubbio il posto di cui uno aveva bisogno per completare la sua istruzione. Là si imparava come si facevano realmente le cose, invece di come si riteneva che fossero fatte. «Ho appena cominciato a istruirmi», pensò. Si domandò se avrebbe potuto continuare a lungo. Il Gaylord era una cosa buona e solida, ed era ciò di cui egli aveva bisogno. In principio, quando ancora credeva a tutte le sciocchezze, ne era rimasto scandalizzato, ma ora ne sapeva abbastanza per accettare la necessità di tutti quegli inganni, e quello che imparava al Gaylord serviva solo a rafforzare la sua fede nelle cose che stimava vere. Gli piaceva sapere come realmente erano le cose, non come si riteneva che fossero. Si mente sempre in una guerra. Kashkin l'aveva portato lì la prima volta e il Gaylord non gli era piaciuto. Kashkin aveva detto che l'avrebbe presentato a Kharkov perché Kharkov desiderava conoscere degli americani e perché era il lettore più appassionato di Lope de Vega che esistesse al mondo e pensava che Fuente Ovejuna fosse la più grande commedia mai scritta. Può darsi che fosse così, ma lui, Robert Jordan, non lo credeva. Gli era piaciuto Kharkov, ma non il posto, questo Gaylord. Kharkov era l'uomo più intelligente che egli avesse mai incontrato. con gli stivaloni neri da cavallo, i pantaloni grigi e la giacca grigia, con le mani e i piedi piccolissimi, un po' gonfio ma fragile nel viso e nella persona, con la parlata sibilante attraverso la dentatura guasta. Aveva un aspetto comico quando Robert Jordan lo vide per la prima volta, ma aveva più cervello e più dignità interna, insolenza esterna e senso umoristico di qualunque altro uomo che gli avesse mai incontrato. Kashkin l'aveva descritto come un diavolo d'uomo e Kharkov prima era stato gentile in modo insultante e poi, quando Robert Jordan non aveva recitato la parte dell'eroe ma aveva raccontato una storiella davvero divertente, oscena e poco onorevole per lui, Kharkov era passato con sollievo dalla gentilezza alla scortesia, poi all'insolenza ed erano diventati amici. Jordan era diventato amico anche di quella donna incredibilmente magra, tirata dalla pelle bruna, tenera, nervosa, triste senza amarezza, dal corpo esile e trascurato e dai brutti capelli striati di grigio e tagliati corti, che era la moglie di Kharkov e faceva da interprete con la divisione dei carristi. Era diventato amico anche dell'amante di Kharkov, che aveva gli occhi di gatto, i capelli d'oro rosso, a volte più rosse, a volte più color d'oro, a seconda dei parrucchieri, un pigro corpo sensuale fatto per aderire bene ad altri corpi, una bocca fatta per adattarsi ad altre bocche e una mente stupida, ambiziosa e assolutamente leale. Questa amante adorava il pettegolezzo e praticava una promiscuità periodicamente controllata che sembrava semplicemente divertire Kharkov. Si diceva che Kharkov avesse in qualche luogo un'altra moglie, oltre quella dei carri armati, forse due, ma nessuno ne era molto sicuro. A Robert Jordan piacevano sia la moglie che conosceva, sia l'amante. Gli sarebbe probabilmente piaciuta anche l'altra moglie, pensava, se l'avesse conosciuta, e se c'era un'altra moglie. Kharkov aveva buon gusto in fatto di donne. Una volta aveva pensato che il Gaylor gli era stato dannoso. Era l'opposto del comunismo puritano, religioso, di via Velázquez 63, il palazzo di Madrid che era stato convertito in quartier generale della Brigata Internazionale. In via Velázquez 63 era come essere membro di un ordine religioso e il Gaylord era molto lontano dal sentimento che uno aveva al comando del quinto reggimento prima che fosse spezzettato nelle brigate della nuova armata. In entrambi questi luoghi uno sentiva che stava prendendo parte a una crociata. Ecco, questa era la sola parola adatta, sebbene fosse una parola che era stata così logorata e male usata da non dar più il suo vero significato. Era il sentimento di consacrarsi a un dovere verso gli oppressi, di tutto il mondo, di cui era difficile e imbarazzante parlare così come di un'esperienza religiosa. Uno aveva la sensazione di partecipare a qualche cosa in cui poteva credere interamente, completamente, nella quale sentiva un'assoluta fratellanza con tutti gli altri partecipanti. Era qualcosa che uno non aveva mai conosciuto prima, ma ora la provava. E uno dava tanta importanza a quel sentimento e ai suoi motivi che la sua stessa morte gli sembrava assolutamente irrilevante. Ma la cosa migliore era che quel sentimento e quella necessità si potevano esprimere in qualche modo combattendo. «E uno così combatteva», pensò Robert Jordan, «e combattendo, presto chi sopravviveva e diventava un buon combattente perdeva ogni purezza di sentimento, al massimo dopo 6 mesi. La difesa di una posizione o di una città è una parte della guerra in cui uno può provare quella prima specie di sentimento. Sulle Sierras si era combattuto in quel modo. Lì si era combattuto col vero cameratismo della rivoluzione. Fino al momento in cui c'era stata per la prima volta la necessità di imporre una disciplina, egli aveva approvato e capito. Sotto il cannoneggiamento alcuni erano stati vigliacchi ed erano scappati. Li aveva visti fucilare, poi lasciar lì a gonfiarsi lungo la strada, e nessuno si preoccupava d'altro che di togliere loro le cartucce e gli oggetti di valore. Prendere le cartucce, gli stivali e le giacche di pelle era giusto. Prendere gli oggetti di valore era soltanto cinismo. Serviva solo a impedire che li prendessero gli anarchici. Omero Antonutti ha letto Per chi suona la campana di Ernest Hemingway, regia di Anna Antonelli, riduzione di Giovanni Piccioni, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.